gente della mia terra, gente mia, agnelli del Signore, quello là. Abbiamo vinto oggi e in fede mia, credo che non ci fermeremo qua. Potente ci fa tremare, ci fa tremare. Noi chiediamo la forza al cielo, perché il Dio non può sbagliare, non può sbagliare. Ogni agnello diventa lupo, se giustizia si deve fare. Solo quando giustizia è fatta, tutto il popolo può cantare. Non più servi di una terra che il potente non ci dà, non più carne per la guerra, ma fratelli in libertà. Non più servi di una terra che il potente non ci dà, non più carne per la guerra, ma fratelli. Ci strappa i figli e il grano, i figli e il grano. Oggi un uomo s'è fatto lupo per salvare un gregge intero, e laggiù contro il cielo cupo si è perduto lo sparviero. Popolo, fai sentire la tua voce! Non più servi di una terra che il potente